brucia! Abbatti il fischio! E poi mister! Tutto a posto? Come al solito, tutto a posto e niente in ordine. Ma quale fosse a posto, magari a posto, iaia. Vabbè, allora, ho sentito un bispi di lusso qua musicale, bello. Ok, perfetto, buonasera Giulio, salutone così ali qua dalla collinetta. Mister Frenzi, a te il cambio. Ok, grazie. Sì, questo qui ha una bella musica, fischiante. Però non la vogliamo parlare. Vediamo cos'è. Avanti l'amico fischiettone. No, non ne ha voglia, non ne ha voglia. Ha poco fiato. Stasera ha poco fiato, dunque parla poco. E allora, in collina come si sta? In collina non si sta male. Almeno momentaneamente, dopo quando caleranno le temperature, allora è peggio, allora forse è meglio riattaccere, perché è più in basso e quindi più in pianura sta meglio lì, si tocca meno diciamo, si toccano meno le temperie. Ok, qua invece collina alta è sempre un disastro quando c'è diciamo il brutto tempo, Ok. Perfetto. Ma tu comandante, mi pare che stai usando la Game Master, ma te la stavo guardando questa Game Master, non è male un'antenna, c'è anche bobina in rame, se non va errato, stavo guardando un catalogo qua della Prox. Ho visto una bella antennina e quanto c'ha di carico, mi pare un kilowatt, così è. No, 500 watt mi sembra che ti possono usare, ma comunque quello non è che ha importanza, perché uno cosa prende per prendere un alimentatore a 500 watt, non mi interessa, a me l'antenna va benissimo, ti posso dire che va benissimo, è leggera, si piega quando, cioè oscilla molto quando c'è vento, però non si spezza. Va benissimo, no, non c'è problema. La resa, le prestazioni sono né più né meno come la Mantova che avevo prima, anzi forse anche di più, in lontananza, magari anche di più in lontananza, qualcosina in più da. E poi è anche più silenziosa rispetto alla Mantova, si sente meno QRM, eccetera, eccetera. Insomma va bene, è una bella antenna, a me piace. 160 euro più il trasporto, all'incirca 170 in tutto. Ecco, io stesso ho costato poco, 160 euro. Bene, solo come fare, che poi è fatta in vetro resina, filo in vetro resina, pare che sia. Ok, perfetto. Per chi non c'è esigenza, già è una bella antenna, anche quella, non è il contrario. Ma lo tiro secondo diciamo che il vento tira un mezzo casino con quella vetro resina, già diciamo è un casino anche per quello in alluminio, bensì diciamo, infatti io quello che c'è l'antenna è piazzata da poco, è nuova l'antenna, c'è poco più di 4 mesi, ma lo stiro l'ho tutto ancorato, ci ho messo 5 ancoraggi con della lenza diciamo grossa, lenza da muratore grossa, e niente, tutta ancorata, perché diciamo se no lo stiro va a finire diciamo che flette troppo, e infatti noi diciamo delle esperienze diciamo tipo l'altra antenna che avevo prima, la Sirio 827, che diciamo fretti ha sbagliato diciamo gli ultimi tubi della un ballottino, gli ultimi io li chiamo stadi, andavo fuori di sezione, in più creavo pure stazionaria, e allora l'ho smontata l'antenna diciamo anche lei era un po' vecchia, c'era più o meno 5 anni sul tetto, ma e niente, tutto quel capitolo è perché, diciamo, io ti sto dicendo che non tiro qua, vado ognuno a fare quello che fare, diciamo così, ma è meglio, diciamo, sempre una piccola protezione, se no è un casino. A te, cambio, vai. Ok. Sì, no, io ripeto, ce l'avevo e ce l'ho sempre, la Mazda Turbo nuova, l'ho tenuta un po' di anni, 5-6 anni, e andava bene, solo che magari non era cortocircuitata, ogni tanto bisognava ripristinarla per quel motivo, ma io l'ho tolta soprattutto perché una volta quando c'era vento fischiava che era una meraviglia. Guarda, era troppo rumorosa secondo me, dunque l'ho tolta per quel motivo lì, siccome non ho dava fastidio, a me personalmente mi dava fastidio. E allora ho messo questa, e questa devo dire che va benissimo. Poi per quanto riguarda la rigidità dell'antenna, io dico che va bene, perché anche se oscilla molto, ed è proprio quello il vantaggio, proprio perché oscilla che non si spezza. Poi io l'ho rinforzata nel punto cardine, ci ho messo un pezzo di tubo quindi rigidi da elettricista, una quarantina di centimetri, proprio dove il punto più debole, e vedo che adesso regge bene, non c'è problema, insomma, ecco, va benissimo. Tanto più ce l'avevo già da prima, io con l'auto costruita, che non era certamente in vetro resina, era una porcheria, era, e nonostante tutto l'ho tenuta quasi 3 anni. Adesso questa ce l'avrò 7 mesi, 8 mesi, una cosa del genere. E va bene, il vento ne tira forte qua, non ti credere che qua non ci sia vento. C'è vento, anche perché quando soffia abbastanza forte. Magari via ultimo e più in alto sarà ancora peggio, però io dico che ha piazzata bene, con i dovuti modi l'antenna va bene, funziona bene. E beh, funziona bene, sì. Sì, lì lo stesso, lo dici tu, non è mica stupido, lì lo stesso, vendici, ci sono abbastanza, diciamo, potenti quando si decidono di esserlo, quindi c'è poco da... Poi lì è una zona aperta, lo dici tu, io lo penso, sono più alto di te, ma io almeno forse l'ho coperto qua dal castello e via dicendo, ma non però dalla zona di San Guesco, lì una zona sono tutto aperto, lì tutto coperto, quindi da lì il vento è maledetto. Niente, ma quindi sempre quel lavoretto gli hai fatto questa antenna qua, perché dice che l'hai rinforzata, e quindi per sicurezza, quindi se l'hai rinforzata così non c'è bisogno di ancora niente, va bene lo stesso, l'importante è che diciamo resista, diciamo, ai soffi potenti, diciamo, della natura. Ok, perfetto. E questo io mica ci lascio il canottone durante, non mi sta piacendo per niente a me questa antenna, l'ho pagata un sacco di soldi, pagata qui quasi circa 250 euro l'ho pagata. Ok, se ci arrivi, a testa quasi 8 metri, 7 metri e 50 mi pare che sia. Leggerissimo tutto qua, ce l'ho qua, rosso, questo strumento, l'altro ne segno le 2 e qua ne segno le 5, non so perché. Va bene, te ne cambio. Ok, grazie. Sì, no, ripeto, ma a me l'antenna va bene, io sono contento, sono soddisfatto, almeno non ci sono radiali, così nessun volatile si può poggiare sopra i radiali, è leggera, piazzare. Puoi tranquillamente maneggiare come vuoi tu, anche da solo, senza bisogno di essere aiutato da nessuno, perché per tirare sul tubo tranquillamente, io il tubo a cannocchiale, no? Non l'avevo autocostruito, e tranquillamente la porto su quando voglio e vedo che funziona bene, anche perché non ce l'ho solo io stasera, guarda che ce l'abbiamo già, a stasera ce l'abbiamo già in 4 o 5, ce l'abbiamo, e nessuno si lamenta, anzi tutti quanti sono abbastanza contenti e soddisfatti di questa antenna. Magari guardandola così sembra troppo cara, perché in effetti guardandola per come è l'antenna sembra molto cara, molto costosa, però devi considerare che anche la Mantova non è che costa poco, io la Mantova l'ho comprata, quanto saranno? Saranno 6 anni, 7 anni, 8 anni fa, dai, e l'avevo pagata 145 euro, non era da 2000, no, perché vedi bene, questa sì, è vero, questa qui è una bombina, un pezzo di filo, però c'è tutta una prestazione da tenere in considerazione. Per me va bene, io sono contento così, vai. Vabbè, se va bene quella, certamente, va bene. Non è in pratica una bella antenna, è una bella antenna, non c'è da dire. Stavo guardando io in questa sala lì, non è male con l'antenna, non è male, una bella antennina, poi c'è anche la bobina, il rame, e anche quello diciamo gli dà una caratteristica diciamo di resa, quindi conta anche quella. Sì, perché la bobina, il rame è diciamo da più, cioè come prestazioni sicuramente è molto migliore di quella in alluminio. La mia diciamo è la bobina in alluminio come quella della Mantova, solo che diciamo la bobina di questa antenna che ho io, quella della Mantova mi pare che sia tre chioccioli, pare questa che ho io ne ha 6 o 7 chioccioli, capito? È molto molto alta come bobina, ok, invece quella della Mantova è più bassa e più diciamo per la stessa diciamo così, dai, tutto qua. Ma anche questa non è diciamo malvagia, però non lo so, e niente di particolare. Benissimo, a te Cambio. Ok. Beh certo, in effetti è così, io ripeto, non ho assolutamente niente da invidiare ad altre antenne, perché secondo me è un'antenna funzionale, un'antenna che va bene, un'antenna che non crea interferenze, quello è importante soprattutto, a differenza delle altre antenne con i radiali che possono creare delle interferenze ad altre apparecchiature. Tu pensa che io ce l'ho attaccata all'antenna TV, ce l'ho a distanza di 1,5 metri, non di più, per cui è non solo la mia antenna ma anche quella del vicino, per cui l'antenna va benissimo, non disturba, non interferisce niente. Naturalmente è interessante che chi ha l'antenna ce l'abbia in ordine anche loro, perché se hai pure l'antenna tutta marcia, eccetera, potrebbe anche dare fastidio, però io ripeto, per me va benissimo, io non mi posso assolutamente lamentare, anzi devo dire che la consiglio a tanta gente, a chi la vuole comprare, io vi dico comprala perché va bene, poi ognuno le sue idee e ognuno sceglie quello che crede, con i suoi soldi compra e spende come crede, non c'è problema, per me però va benissimo così. Sì, ok, perfetto, va bene, pare che non ci sia nessuno per questa sera, solo quel tipo diciamo musicale, perfetto, vabbè, ognuno c'ha i suoi gusti, non è, diciamo, ma ripeto, perché non ha molta esigenza, andiamo a bere anche quella. Però io nel catalogo mi pare che sono sbagliato, mi pare che pare strano che tu mi stai dicendo che sia 500 watt quella, boh. Sì, allora lo stesso la energy, quella che avevo io prima, che diciamo, per tanto per fare due chiacchiere, ma non era proprio, infatti non so, vabbè, c'erano stesso 3 anni, piano piano, quando uno ha, diciamo, disponibilità tascabili, si è rimasta quella lì. Dopo, come ho avuto occasioni, ho preso questa e ho piazzato questa, abbiamo piazzato, piazzare con la tenda un'aia. E non è manco molto leggera, pesa circa quasi 6 kg questa tenda, quasi 6 kg pesa, quindi non è tanto leggera. Attacco, diciamo, centrale, fissaggio centrale incasso al palo, via. Come la mantova stesso, solo che la mantova c'ha, diciamo, i fissaggi, diciamo, con due diciamo bulloni, come diciamo la serie che avevo io. Questa qua invece non c'è nessun fissaggio, infatti l'ho dovuta fissare con gli ancoraggi, ho dovuto mettere le scarpe, a forza di mettere, diciamo, fissate al palo per l'ancoraggio del palo, l'ho dovuta mettere, diciamo, sotto la bobina, perché non c'è nessun fissaggio di blocco al palo con l'antenna, ma te ne immagini? Ok, va bene, che con l'antenna lì, diciamo, è predisposta anche per la staffa, la staffa, diciamo, nella confezione non c'era, perché è un pezzo, diciamo, un'opzione, diciamo, a parte, si paga a parte. Ok, tutto qua, se lo lasciamo lì per quella lì, è capace che il vento, sarebbe la portarla, per carità, già quella lì è già un'opzione, diciamo, una cosa che non piace proprio. Vabbè, che succede? Infatti non ci rimarrà molto lì sul petto. Vabbè, a te il cambio. Ok, Francesco. Ma cosa vuoi dire? Io non so che antenna hai, tu mi stai dicendo che è anche abbastanza pesante, ma io, ripeto, volendo posso rimettere quella che avevo prima, perché ce l'ho nuova, l'avevo smontata dopo che l'avevo usata 5, 6 o 7 anni, e dunque l'ho smontata, l'ho conservata, proprio perché, ma solo esclusivamente perché mi dava fastidio il rumore del vento, i radiali che fischiavano la notte, l'inverno non mi dava fastidio durante la notte. Allora ho pensato a questa, e questa va bene. Scusami un attimo, Francesco, che rientro subito, dai, che vado un attimino in bagno. Prego. Attenzione 10. Avanti su 10. Sì, ciao Francesco, mi hai sentito? Ho sentito di sfuggito a Giulio. E Giulio è andato, come si può dire, nel QTH piccolino. Sì, infatti questa parola QTH piccolino è un po' che non la sentivo. Poi c'è anche il QTH grande, così. Il QTH grande è fuori in strada. Quando si trova fuori, diciamo, il QTH, quello lì è il QTH, il QTH grande. Ah, sì, quando devi fare cose piccolino ci vuole nel QTH piccolino, quando devi fare roba pesante nel QTH grande. Sempre non ti vede nessuno. Non c'è nessun altro qua su 10? No, eravamo solo io e Giulio, nell'articolo sono altro, a meno che non esci qualcosa di altro, magari entra troppo tardi, e vincia, è così, come succede, vabbè. Ma ti stai aiutando per caso, Francesco? Cosa? Ti stai aiutando con qualche cosa? No, sto facendo liscio con i soli watt dell'apparecchio, solo che questo apparecchio è da 50 watt, non scherzo. Ah, vabbè, quindi c'è qualcosina, dai, un po' più spinta, perché ti vedo più forte del solito, sei quasi 9,15. Perché ho cambiato anche antenna, infatti stavo parlando anche con Giulio. Sto usando la Super LEM, la LEM Super 16 sto usando, 16 radiale, ok, niente di particolare, no, questo apparecchio è parecchio, apparecchio, diciamo, professionale, ok, non c'è bisogno questo qua di attaccare niente, già passano infatti che eroga lui. 9,15, perfetto, va benissimo allora. E come la radio, come senti? Sì. Sì, la voglia, benissimo. E dammi un rapporto di segnale anche tu dalle tue parti. Il rapporto di segnale qua è Santiago Nove e Radio 5, perfetto. Tu arrivi più forte però, io non sto spingendo, sono normale, dai, qualche cosina in più, ma saranno una decina, 10-15, non di più. Ok, tu stai arrivando più forte, 9+15 comunque. Sì, vabbè, perché io per caso sono chiuso, eppure riesco a arrivare lo stesso, non diciamo molto chiuso, ma diciamo... sono coperto da case e via dicendo, quindi non sono molto aperto. Il distanza un 200 metri più avanti sarei arrivato più forte, perché avrei avuto tutta la zona di sassa e zona di micro più aperte, quindi sarei arrivato più forte. Ma intanto già me la cavo, già a quanto pare già ce la cavo anche bene la quale stazione, no? Ok, perfetto. Ciao. Rientrato. Ciao Giulio, ben sentito. Ciao Roberto, mi stavamo chiacchierando poc'anzi. Scusa che sto guardando qua. Sì, sono stato guardando il dosmetro. Questa mattina l'ho inserito e l'ho lasciato attaccato, poi magari dopo lo tolgo. Comunque adesso ce l'ho e lo sto usando. E stavo dicendo, Francesco, ripeto, a tanta gente magari non piace perché dicono è una canna da pesca, eccetera, eccetera. A me piace e me la tengo e sono orgoglioso di averla, perché devo dire, ripeto, le prestazioni sono né più né meno come quella che avevo prima, anche migliori, io parlo di preparazione, forse anche migliori. Ne ho fatto dei bei collegamenti anche insieme a Roberto, in tandem ne abbiamo fatte, lui ci può confermare che le prestazioni sono buone, anche se sembra una canna da pesca, un filo praticamente quasi inaccettabile a secondo delle idee della gente. Per me va benissimo. Riprendi Francesco? Sì, canna da pesca. Magari lo dico anche per chirurgia, quale canna da pesca di cibo. Una penna come tutte le altre, allora anche la mia è una canna da pesca, perché è lunga 7,50 metri. Allora anche quella è una canna da pesca. Sono tutte stupidaggini quella lì. Quelle lì, l'antenna è sempre l'antenna, non c'è niente da fare. Ok, è stata costruita da ingegneri, quindi gli ingegneri non hanno pensato, che stessero costruendo un canna da pesca. Stavano costruendo un'antenna per la CB e niente di più e niente di meno. Ok, quindi uno può dire quello che gli pare, però è sempre l'antenna. Ovviamente c'è a chi piace, a chi non piace, a me l'ho vista, ripeto, nel catalogo e mi è falsa una bella antenna, dopo per chi non piace pazienza. Magari forse quello che ha detto che non piace o quelli che hanno detto che non piace, evidentemente non ne hanno niente, hanno magari qualche vecchia antenna che non vale niente, e tutto qua, capito? Ok, va bene, riprendi Gianni, sei cambio. Ecco Gianni. Vabbè, si è sbagliato, dai, vai. No, facciamo ci fosse Gianni pure io, dai. Una domanda, Francesco. Tu te lo ricordi a Silvestro, quello di Osilo? Silvestro. Silvestro, qua, a Osilo. Non ce l'ho presente. Non ce l'ho presente. Giulio, come si chiamava di nome? Non lo so. Io Silvestro mi ricordo quello del Porto Torres, buon'anima, ma quello di Osilo non me lo ricordo nemmeno io. Silvan, cioè Ivan mi ricordo di Osilo, e qualche altro che adesso mi sfugge il nome, Parlavamo qualche anno fa, ti ricordi che tu lo conoscevi anche abbastanza bene giù, non vorrei confondere, io mi ricordo Silvestro, e stava di lì nella piazza San Valentino, possibile Francesco? No, stai sbagliando tutto, completamente, quello si chiamava Ivan, in pratica era il suo nome, il vano, o quello si chiama, si chiama Giovanni, Giovanni Fatta si chiama, Giovanni Fatta, come nominativo, diciamo, come diminutivo Ivan, era in pratica il suo nome lo stesso. Silvestre infatti c'ha ragione Giulio, lì era Porto Torres, infatti io questo Silvestro l'avevo sentito, però non mi ricordo, non sapevo manco da dove era, o non mi ricordavo da dove era, infatti Giulio ha chiarito Porto Torres, quindi anche quello è morto, peccato. Va bene, capito? Mario, mi sto confondendo io, ma chi c'era qualche anno fa di Usilo? C'era qualcuno, io mi ricordo che parlavo con uno di Usilo, adesso il cognome, cioè il nominativo forse non era Silvestro, ma c'era uno che io parlavo. Serafino. Ci sei in ascolto, attenzione Falcone. Serafino c'era, Roberto. Serafino, ho detto male, Serafino, no Silvestro, Serafino. Avanti Luca, tu sei? Ah, non c'è Falcone, ciao Giulio, Falcone stavo cercando, non c'è. No, non c'è Falcone, è uscito, alla prossima tornata magari, può essere che ci sarà. Avanti Luca, c'è Francesco e Roberto, e forse ci sono anch'io. Sì, ciao Giulio, ciao Roberto, ciao Francesco, non so se mi ascolta. Ho mandato un messaggio su WhatsApp, Giulio, ma non mi ha risposto. Comunque, vabbè, l'inclinazione non sento più nessuno, non so se ha cambiato frequenza. Non era 431-237, non lo so, io non l'ascolto mai, perché non so cosa dirti, Luca. Dovrebbe essere così, 431-237, se mi ricordo bene. Vabbè, non so, ma sicuramente avevano cambiato frequenza, si sentivano spesso, vabbè che c'era sempre il disturbatore. Avanti, Usi, lo mi ascolti? Roger, ti ascolto qua, anche un po' partendo il segnale, la radio che è comprensibile, in realtà sta arrivando una radio di tre qua, e il segnale mi pare, il segnale di tre lo stesso. Ok, perfetto, va bene, riprendi Roberto, te cambia. Ciao Luca, ben sentito. No, Serafino era, non cosa, non Silvestro, mi sto confondendo io. Te lo ricordi tu, Francesco? Sì, Serafino, il pastore, sì, l'allevatore. Certo, me lo ricordo. Oh, anche quello è sparito, come si è sentito. Aveva la stazione in macchina, quello lì. Ce l'aveva anche a casa, ma dopo aveva smontato tutto, perché il punto. Non l'ho più sentito, qualche volta lo vedo in giro così, ma frequenza non l'ho più sentito, sparito. Non me lo ricordo, ma adesso ci faccio sentire, forse era una posizione migliore della tua. Quello invece in Piazza San Valentino è la moto che non modula più. Quello lì è anni, poi qua non abita più qua, C'è ancora l'antenna sul tetto dove abitava, nella casa dove abitava, che adesso è disabitata, non ci abita nessuno. C'è rimasta l'antenna, aveva mi pare che c'era molto buono quella lì. C'è ancora, sono tutti radiali, ancora lo stilo, anche se diciamo il registro su il terminale su dell'antenna è un po' inclinato, evidentemente questo volatile l'ha colpito e l'ha inclinato, ma è da molto. Lui da qua manca da parecchio, quello lì già in frequenza manca una ventina d'anni, più di 20 anni. Anche 30, anche 30 anni mi manca. Sì, Ivan, era Ivan, che so che vendeva, credo che vendesse dei mobili, o aveva negozio, oppure era rappresentante di mobili, qualcosa del genere. Sì, parlavo tutti i giorni con lui, io, lui e una ragazza dell'isola d'Elba, tutti tantissimi giorni, anche d'inverno, senza propagazione, niente. Questa ragazza dell'isola d'Elba arrivava e noi arrivavamo là, ma sì, però ci sentivamo tranquillamente. Avanti, vabbè. E prima quando non c'erano questo inquinamento radioelettrico, adesso con tutte le radio private, televisioni, cellulari ormai, non vai da nessuna parte, per dire 40 anni fa con 5 watt ti ascoltavano tranquillamente anche come hai detto tu all'isola d'Elba. Sì, ma io me lo ricordo benissimo perché ripeto, il nostro QSO era improntato fra me e lui, cioè questo Ivan e questo questa ragazza che adesso non ricordo nemmeno come si chiamasse, e lui era lì sulla demba, tranquillamente, ma evidentemente io ci arrivavo, tanto io abitavo nell'altra casa e non qua, e dunque evidentemente c'era un banco dove io riuscivo a passare, tanto più che io proprio in quegli anni vedevo Tele Monte Carlo, vedevo Tele Ciocco, tutti, anche quando Sassoli non c'erano, Rai 3 della Toscana, tutto quanto vedevo tranquillamente con la televisione. Però erano altri tempi, adesso non so se è possibile, mi giravo l'antenna e vedevo anche Tele Monte Carlo quando Sassoli se lo sognava di vederlo, capito? Poi naturalmente è arrivato il discorso Fusaro, che lui ha fatto il modo di farlo vedere anche a Sassoli, a tutti quanti. Avanti Luca Spanito, come sempre, avanti Roberto. Infatti poi aveva portato Fusaro e aveva chissà quanti soldi gli hanno dato per fare una cosa del genere. Lui lo prendeva dall'Imbara e lo rimandava qua a Sassari, ha puntato sull'Isola d'Elba e lo ritrasmetteva a Monteoro, e poi da Monteoro non era fortissimo il segnale Monteoro, però con un'antenna orientata bene riuscivi a prendere, tu addirittura lo prendevi in diretta. No, noi prendevamo dalla Cusita i canali francesi 1, 2 e poi il 3, subito dopo è venuto, ma poco l'abbiamo visto il 2, i canali in secam, i canali francesi ancora eravamo in bianco e nero, però ti ricordi, una mia antenna altissima aveva messo mio padre con un amplificatore grosso, una bella direttiva, non so quanti elementi, 30 elementi, e forse anche di più, e riuscivamo a prendere i canali francesi. Sì, ma quello è possibile anche oggi, basta attrezzarsi di amplificatore sul canale 21 e un'altra apparecchiatura, quello è possibile. Comunque c'è sempre il canale francese, qui per lo meno c'è sempre, adesso non ricordo su quale numero è, però c'era sempre, forse era canale 24, non me lo ricordo più, o perlomeno l'hanno spostato dopo questa rivoluzione che stanno facendo con gli impianti della TV eccetera. Comunque c'è sempre a Sassari un canale francese che parlano e danno il telegiornale in francese, e non solo il telegiornale, tutti i programmi, c'è un canale solo. Va bene, avanti Francesco. Allora Roberto, tu qua e io poco siamo colpiati, tu qua stai arrivando quasi a 9.10, no, non è la questione di notte, dice, arrivi 9 con picchi a 9.10, quindi stai arrivando forse anche tu, io non per cui dici che è poca la differenza. E niente, così è. E Ivan da qua lì, e poi Ivan adesso lì abita lì a Sierra, è già anche da parecchi anni qua che non abita più, sarà almeno lì, una quindicina d'anni che non c'è più qua, la casa diciamo è chiusa, riabitata, ogni tanto salgono direttamente a controllare, dopo di nuovo a Sierra, è tutto qua. Niente, con lui aveva avuto problemi, dopo che cavolo gli è successo, mi pare che gli avevano sequestrato qualcosa, non so, non mi ricordo per esattezza, comunque aveva avuto dei problemi. E allora aveva abbandonato tutto, perché allora, al periodo quando abitava qua, aveva anche la assicurazione della porta qua, infatti aveva l'ufficio a casa sua e la situazione di auto è morto e via dicendo. E niente, tutto qua, dopo la qua, diciamo, quello lì sì, aveva l'esposizione, diciamo, un edificio che vendeva mobili, dopo vendeva anche delle bombole, diciamo, il fratello aveva detto le bombole, diciamo anche, diciamo, quando facevano delle consegne, diciamo, dei mobili per, diciamo, consegnare, diciamo, alle case, andava, diciamo, aveva il fratello che lo aiutava per piazzare, diciamo, i mobili, in pratica erano anche i mobilieri, quelli lì, vendevano i mobili, ok, tutto qua, e bombole, dopo, in passato ancora avevano per fare quelli, avevano, diciamo, per unità mobili, bombole e via dicendo, capito? Dopo man mano hanno calato e niente, dopo da qua è andato via e ripeto, diciamo, si trova lì a Sierra Sierra, ovviamente si è comprato qualche appartamento lì perché ha venduto l'edificio dove aveva il negozio, diciamo, dei mobili, quello lì l'ha venduto, infatti aveva comprato, diciamo, una ditta, diciamo, che c'era un negozio di alimentari, dopo non era più idoneo e diciamo adesso è pure fermo, diciamo, il negozio c'era in affitto qualcuno, mi pare, o se l'ha comprato questo qua, o è in affitto, diciamo, c'è a disposizione delle stufe, diciamo, questo qua vende stufe, fa, diciamo, anche le piazza e tutto, fa anche impianti di aria condizionata e via dicendo, capito? E tutto qua, riprende Giulio. Io già sapevo qualcosa, ma comunque non l'ho voluto dire, ma già sapevo qualcosa. Ripeto, per me era un bravissimo amico della frequenza, era educato, modulava tranquillamente, senza disturbare nessuno, poi naturalmente se sai, i problemi la gente alle volte li può avere e non c'è da meravigliarsi. Allora che vabbè. Ma da lì dominava bene Ussilo, forse lui ha avuto problemi perché magari qualche disturbo di lì ci sono i carabinieri attaccati, o sbaglio Francia? A pochi mesi ci sono circa 50 metri distanti. I carabinieri sono nella piazza proprio, nella piazza di San Valentino, dove abitava lui, non è, diciamo, una piazza, siamo in una strada, diciamo, una strada provinciale, diciamo, che passa, diciamo, la strada principale, diciamo, che va a Nulvi, dai, Nulvi, Sassari, Santa Vittoria, via dicendo, in corso lì, abitava vicino in corso. Tutto lì. Ok, volevo dire poi chi c'era giunto, ricordate tua memoria da Ussilo. Niente, sto dicendo Serafino, io sentivo Serafino, ma niente di più, perlomeno non mi ricordo che ci sono stati altri civili, questo non, al momento io non mi ricordo assolutamente. Con Ivan, sì, Ivan, ripeto, non c'era giorno che non facevamo questo, la notte, io, lui e questa ragazza del Vitola del Bobo. Poi, il punto in bianco è sparito e poi non ho saputo più niente, evidentemente avrà avuto dei problemi, non lo so, oppure non ha avuto più voglia di modulare, non te lo so dire, vabbè. Vai. L'hai conosciuto giù, io sono molto amico, quest'uomo te presente c'ha 99 anni, ha fatto, giù a Platamona dove stavo io più o meno, dai, non diciamo i fussi, già lo sai più o meno, dove abita quella persona Giulio che conosci tu, dai, per dire la posizione, di Luciano, il baracchino, mi diceva sempre, ma ci ha parlato tanti anni fa, il figlio fai conto c'ha più di 40 anni adesso, stiamo parlando almeno 35 anni fa, lui c'ha una bella antenna alta di lì, c'era addirittura anche la luce sull'antenna, per talmente alta l'antenna, e parlava sempre con questo della Tirrenia, dice tutte le notti, sino ad arrivare a Genova, gli faceva compagnia perché lui non dormiva niente la notte, tutto il percorso con questo Gino, si chiama questa persona, però non so il nominativo. Sì, Gino, sì, io già lo so, ci ho parlato per anni anche con lui, lo so, faceva di mestiere, faceva l'elettricista o motorista, o elettromeccanico, insomma aveva a che fare con l'elettricità. Sì, signor Gino, ancora vive signor Gino, non sapevano robe. C'è grande persona, è elettricista, però si è andato a fare di tutto, ma ho tentato a lavorare con una vita da pastificio pesce, ma solo per allora a me mi ha costruito, proprio costruito, io ho un apparecchio, un compatto, dai, vecchio della Panasonic degli anni 70, che c'è, fa la cassetta, registrato da cassetta, c'è un amplificatore e tutto, c'ha anche la radio, e lì hanno sbagliato la tensione, è partito il trasformatore, proprio fuso. l'hanno aumentato, tensione sbagliata, anziché a 220 era a 110 impostato. Lui mi ha costruito il trasformatore, lo so che è costruito da zero, cioè ha preso le sfide, tu mi hai detto questo c'aveva quattro uscite, mi sembra una 7, una 12, una 18, adesso non mi ricordo, ha fatto tutti i calcoli, ha preso le lamelle, il rame, ha misurato lo spessore delle cose e mi ha costruito un alimentatore, un trasformatore con queste uscite, a quattro uscite per far funzionare questo apparecchio. Ma una cosa, aspetta, se lo vedi in elettrotecnica è micidiale, poi lucido, una persona anche se adesso è molto molto giù di salute, però è lucido, lo vedi, io ci siamo visti il mese scorso, ci conosciamo benissimo, ci ha fatto grande lui, si può dire, ma tu lo vedi costruendo, di tutto si è andato a fare, dal cancelletto a saldature, falegname, vetraio, di tutto e di più, di qualunque. Poi la specializzazione sua è elettrotecnica e soprattutto con i trasformatori, è bravissimo. Sì, sì, lo so che era bravo, un bravo tecnico, certo, lo sapevo questo discorso di signor Gino. Vabbè, è beato lui che è arrivato a quell'età e speriamo che continui a vivere molto, io sarei contento per lui. Sì, lo so, Robert, signor Gino era un grande, diciamo che era un grande, persona educata, persona seria, tutto quello, non gli puoi dire niente, niente di niente, nella maniera, se tu vuoi trovare un difetto non lo puoi trovare, perché non ce l'ha mai avuto, per cui lo so, è stato veramente grande. Sì, e beh, ha costruito un autotrasformatore, ha fatto quattro uscite, ha fatto un autotrasformatore, una volta che ha più uscite si chiama autotrasformatore. E vabbè, un qualcosa del genere avevo fatto anch'io per un Constant 23 che avevo tantissimi anni fa, l'avevo costruito, un trasformatore a mano, addirittura a mano, perché non avevo io la bollitrice e l'avevo costruito, solo che quando l'ho provato, anziché avere 280 volt, 220 volt di uscita, ne aveva 180, però era per un valvolare e andava bene, perché per le valvole vanno bene anche 180 volt per poter funzionare, magari ci impiega un pochino di più per saldare, però funziona ugualmente, bastano 180 volt per poter far funzionare un apparecchio a valvole, che poi ho dato, io non ce l'ho più, però per me ha funzionato per anni, poi non so cosa sia successo, quando l'ho riattaccato accendeva ma non funzionava più, forse qualche condensatore è andato in avaria, perché ce l'avevo anni conservato che non l'avevo più usato, e tu sai benissimo che i condensatori quando sono alimentati a 220 volt si spaccano, e c'era sicuramente qualche condensatore in perdita, ma io l'avevo messo da parte, non mi interessa. Se tu guardi il mio numero nel telefonino, c'è fotografia quel baracchino lì. Va bene, avanti, Francesco. Ok, perfetto. Evidentemente quello lì si vede che era bravo, diciamo, autocostruttore, e non è poco, è una cosa, quelle sono doni di natura, quindi non ci niente da dire su quel campo lì. Perfetto, allora qua noi eravamo in quattro, all'epoca in quattro, c'ero io, dopo c'era Ivan, c'era Paziale, si chiamava Giovanni, quello lì che è defunto già da qualche anno fa, e dopo c'era anche Tiger, quello si chiamava Nello Mangatia. Quello che è, quello lì adesso non c'è manco più qua, quello lì aveva abbandonato anche da parecchio la città, non so perché, però aveva abbandonato. Dopo aveva ripreso, aveva messo un'antenna di... si è sposato e si trovava per i cavoli suoi e aveva messo, diciamo, sul poggiolo un'antenna diciamo di auto aveva messo, e usciva con quella lì, dopo ci è durato 2-3 anni, dopo di nuovo sparito, e niente, dopo si è trasferito a Sassari, anche quello, e mi pare che c'è un bar a Sassari, quello, e niente, comunque eravamo in quattro, io ripeto, Ivan, parziale, che vedeva a Bumbole, questo qua era anche altro tecnico, che è morto, questo Tiger, dopo che è introdotto questo Serafino, tutto qua. Perfetto, a te Roberto. Ma lo sai, il suo organizzato a lavorare questo giù, proprio il suo lavoro cosa? Lui durante la guerra era, come si chiama, quelli che facevano i film sulla guerra, l'Istituto Luce, lui ha lavorato tutti i film infatti che vede alla televisione, li ha fatti lui, non hai visto quei film la storia della seconda guerra mondiale, lui era, andava in giro per i combattimenti, per la guerra, eccetera, eccetera, c'avevano un furgone e mi raccontava tutta la storia e cosa hanno fatto, mi ha raccontato tutto. E c'aveva poi questa valigia, cacchio, che poi gliel'hanno sequestrata, poi c'erano tutte le bobine, tutte, molte bobine che hanno fatto di queste riprese. Lui era con la tiene preso a lavorare, andavano in giro per conto del Luce, dei fascisti, a girare dell'istituto, lui era dipendente dell'Istituto Luce. Infatti dice, io la guerra l'ho vissuta proprio filmata, dice, lui ha visto tutto quanto, anche se dice sono stato benissimo perché a noi non ci mancava niente, dice, eravamo i preferiti da mangiare, ci davano sempre le cose migliori, anche i cioccolati, dice, ce l'avevamo, le caramelle, infatti dice, quando andavamo in giro a tutti i bambini, distribuivamo i cioccolati e le caramelle, dice, io fame non ne ho mai passato durante la guerra, al contrario di tutti quelli che lui ha ripreso. Infatti tutti questi film, dice, la maggior parte li ho fatti io personalmente, perché non erano molti che facevano questo tipo di lavoro. E dice, mi dispiace perché avevo una valigia, come è finita la guerra, me la sono messa da parte con tutte le bobine, un cassone grande, uno di quelle cassapanche, e poi l'hanno sequestrata. Dice, un peccato perché erano tutte le riprese che aveva lasciato da parte. Sì, beh, certo, lo so, era un tecnico, ripeto, era un tecnico abbastanza preparato, e dunque non è che me la vedeva più di tanto, perché io ho sentito tante cose su di lui, ed è una persona veramente apprezzabile, non ci sono dubbi. Sì, beh, lavorava per i film, eccetera, sì, sì. Io lo vedo anche su YouTube, c'è una persona, questo si fa chiamare Ughetto, Ughetto 50, guarda, tu metti YouTube e scrivi Ughetto 50, anche questo è una persona molto, ma molto critica, che sa, si intende di tutto e sa costruire di tutto veramente. Anche lui lavorava nel campo del cinematografico e, ripeto, ma qualsiasi cosa, lui parla di elettricità, di meccanica, di amperaggio, di transistor, di tutto, costruisce piccole macchine, tutto, tutto e tutto, anche la bicicletta elettrica si è costruito. Scrivi su YouTube, scrivi YouTube Ughetto 50 e poi ci sarà tutto quello, potrai leggere tutto quello che lui ha fatto e che fa sempre. Avanti, Francesco. Un vero ingegnere questo, un vero ingegnere allora, purtroppo, vabbè, perfetto, allora, ma non ho più sentito ascolto, o giù, come si chiama, basta, non si dice il nome, vabbè, io devo sapere lo scelto. Lo c'è, sì, no, non l'ho sentito, boh, cos'è, che fine ha fatto, è sparito. Non ho sentito manco a Marco Condor, è sparito anche lui, no, già, sto facendo adesso già, a parecchi giorni, perché prima avevo un po' abbandonato, per tutto il piantello ovviamente, niente, dai, però non l'ho sentito questi qua, tu che sei... Manco a Gio Maria pure, in effetti c'era sempre, boh. Non lo so, vabbè, dopo mi confermerai Giulio, vabbè, riprendi Roberto a te, il cappio. Sì, sì, l'ho trovato giù, guardate questo qua, fa un sacco di roba. Io poi, parlando di gente così brava, ho comprato, me li hanno dati un amico tanti anni fa, no, tu sicuramente lo sai più di me perché sono delle riviste piccoline tipo i giornalini, il Monello, ti ricordi, Intrepido, di quelle dimensioni di lì, erano delle cose settimanali o anche quindicinali, ti ricordi il Sistema Pratico, tutte queste cose qua, che parlavano di tutto e di più, di qualunque argomento, e ti spiegavano tante cose e ce li ho tutti conservati, ma ne ho, non dico un centinaio, ma almeno una cinquantina, e c'è anche delle costruzioni costruzione di antenne, fare il coso, le cromature, ramature, come costruire un, non so, un aeromodello, tante cose, tutte cose in sistema pratico. Tu non hai idea di quanti soldi ho speso io per comprare quelle riviste lì, ma non solo sistema pratico, sperimentare, circuito elettronica, e cos'è che non ho comprato? Beh, anche ultimamente, questo risale esattamente a un mesetto fa, ne ho buttato ancora, ne avevo una cinquantina di riviste. Beh, tu non ci crederai, io un giorno, siccome abitavo nell'altra casa, la casa era piccola, e ce l'avevo nello stanzino, tieni presente che erano collezioni dal 1954, 50, 52 anche, che compravo queste cose qua, sino a pochi anni fa, che li ho sempre comprati. Io ho preso centinaia, centinaia di biglietti da mille, parlando di mille, in riviste. Infatti io ho preso tante cose, ho preso anche da quelle riviste. E non avevo più spazio, ho preso, ho caricato tutto un po' alla volta, allora avevo un motocarro, ho riempito il cassone della moto di riviste e ce l'ho buttato dentro il cassone della Mondezza. Allora in quel periodo c'erano ancora i cassoni qui in zona. Per dirsi no, ma anche da poco, una cinquantina di riviste ho buttato. Non sapevo cosa farne e ce le ho buttate, oh Robè, figurati. Non si buttano queste cose, non si buttano. Buonasera. Ciao Eugenio, l'hai arrivato. E cosa ne facevo? Non, intanto non le avrei più sfogliate, non le avrei più lette, ma dai, no, non avevo più gana di stare a leggere. Prima passavo delle nottate intere attaccate a queste specie di libri, perché in realtà erano dei libri. Non c'era volta, addirittura avevo il veicolante che mi rilasciava appositamente se io, per dire, non andavo il giorno che, perché siccome li vendeva abbastanza, li vendeva in quel periodo, in queste divise, e lui me lo lasciava da parte, quando andavo potevo andare anche in ritardo e lui ce l'aveva conservato per me, l'edicolante di via Pascoli, per dire, no? Purtroppo è così. Poi mi stavi chiedendo, Francesco, che non mi ricordo cos'è che mi avevo detto, cos'è che ti dovevo illuminare. Oh, scusate un attimino, che mi hanno chiamato. Ciao Eugenio, ci sentiamo tra qualche minuto. Ciao, mi avvontano un attimo. Vai Francesco. Sì, sto per illuminare, c'è. Volevo chiederti, non so se ti dico a Marco Condor, né a Gio Maria, né scusi lui, quello di Massa, lo chef, lo chiamo chef, lo chef. Quello che lavorava al Ferro Vecchio, da Savoni mi pare, lavorasse. Niente, ma non ho sentito cosa, ma Vulcano, niente, più boh, spariti, boh, non lo so, Vulcano, evidentemente, prima, adesso che c'è tempo libero in pensione, prima entrava spesso, adesso boh, con la pensione, quello, pare che sia trascurato e se ne altri cavoli sui. No niente, ti volevo attaccare con lui, ma non è che sia molto importante, capito? Ok, vabbè, io adesso sto facendo nominativi che non devo mai fare, che non sono in frequenza, ma diciamo era tanto per sapere, diciamo, un giro di informazione, tanto per cambiare discorso. A te il cambio. Ok. Allora, Marco Conda lo so anch'io un bel po' di tempo senza sentirlo. L'ultima volta che l'ho sentito penso che risalga a un 3 settimane fa, forse anche di più. Mentre invece per Graziano, tu stai parlando di Graziano e di Gian Maria, li ho sentiti proprio stamattina in PMR, però, col PMR, non il 27, col PMR ci siamo sentiti, per cui non era molto, già sono tranquilli, stanno bene, grazie a Dio, meglio così. Poi a Gian Maria, se lo vuoi sentire, basta andare sul canale 23, tutte le sere, già una piccola chiacchieratina già se lo fa, già se la fa lì sul canale 23. Avanti Eugenio. Buonasera anche amico, non so se mi sento, io tiro fuori piccolino. Oia, allora, che si dice ragazzi, siamo forse da sentirci. Sta finendo questa stagione, che bello! Hai visto che sta finendo? Già lo so che per te era molto stressante, molto, molto pesante anche da sopportare perché è il tuo lavoro, però la stagione ormai diciamo che sta andando a finire, per cui non credo che tu possa, diciamo, stressare più di tanto, dai. Sì, il lavoro è sempre lavoro, naturalmente, pesante, è sempre pesante, però meno di prima di sicuro. Avanti ancora, Yuji. Yuji, sono uscito un po' prima, ho fatto una nave partita, 10:30, sono inteso con 4, e poi ci sono saluto gli amici qua, che da un po' che non li sento. E riprendi Franco, mi sa tanto. Vai, Franco. Ok, no, qua a me è Eugenio, diciamo il segnale è zero completamente, la radio è, diciamo, è uno, però arriva a mezzo alla, io sto un po' di correre qua, c'è un rumoraccio di qualche motore elettrico che funziona, non so, forse nell'impianto, diciamo, che c'è su, diciamo, a Capurgo, c'è l'impianto, diciamo, da anni e anni, proviene un rumoraccio lì di motore elettrico, quindi lo sento malissimo, male, non so in quale zona sia, in quale zona, da dove, in quale zona, da quale zona muti, non lo so. Vabbè, comunque se mi sta tirando fuori, sì, non lo saluto positivamente, però qua arriva molto molto basso, ok. Ti lancio, vediamo un po' le marchi, vediamo un po' se mi sente. Avanti Eugenio, se tiri fuori qua la collina, a te cambio. Riprendo io perché probabilmente non si sente, perché anche lui poc'anzi ha detto che tu arrivavi molto basso, ti sentiva molto basso, ma evidentemente è così. Eugenio, aumenta un po' di potenza perché Francesco da Usilo non ti sente. Eugenio da Porto Torres, come mai a Porto Torres lo dovresti sentire bene o Francesco? Strano, vabbè, sono i problemi della radiofrequenza, alle volte